Adesso mi fa molto effetto pensare queste cose qui. Attenzione a tutto questo quando l'autostrada del sole finiva a Battipaglia, per cui avevamo completamente il calendario aperto. Qui capitava di suonare Torino, Reggio Calabria, Reggio Calabria, Aosta, Aosta, Salerno. E no, questo bene, per cui c'è stato questo, sempre questo affetto, e io ho sempre seguito la vita professionale di Riccardo. Quando vinse Sanremo in modo particolare, ero veramente più, forse più felice di lui. Oltre a quello che diceva Robby, che il legame affettivo e umano che c'è sempre stato fra chiunque di noi abbia, chiunque abbia fatto parte dei Pooh, Valerio, Stefano, Riccardo, questo è una cosa che è sempre continuata nel tempo, al punto che con Stefano abbiamo continuato a collaborare, stiamo collaborando ancora. Con Riccardo spesso, io abitando nella stessa città e lui, ci vedevamo per fare degli spettacoli per raccolte fondi, insomma è sempre stato un legame che non si è mai spezzato, e questo dà una credibilità al fatto che noi siamo oggi qua, altrimenti potrebbe sembrare una mera operazione commerciale, invece no, il fatto di trovarsi in un'occasione così importante su un palco con degli amici per sempre, come dice la canzone, è una testimonianza appunto di questo sentimento. Tutti i ricordi del tuo passato, tutte le bambole con cui dormivi e il tuo diario che sempre riempivi solo con ciò che faceva piacere a chi di notte l'andava a vedere. Piccola Getty, oh, piccola Getty, oh. Riccardo Fogli, un ritorno pazzesco. Io c'ero la mattina della conferenza stampa con l'annuncio del hashtag Pooh50, ma anche di questo annuncio della storia che finirà con la fine di dicembre dell'anno prossimo. Quando è entrato Riccardo Fogli è stato un brivido per tutti. Voglio sapere se ve l'aspettavate voi e se l'aspettava Riccardo. Vai Riccardo. Non so che dire, io non c'ero quando avete visto. Io so che c'era un freddo cane, io c'avevo brividi. E non avevo messo la maglia della salute che io porto sempre anche ora. Con i Pooh non si può portare la maglia della salute, si mangiano solo verdure. Io sono abituato a mangiare in Maremma delle bistecche di maiale, i fagioli e l'uccelletta e il pane. Con loro, quindi mi sono un po' indebolito e ho avuto dei brividi in fondo al cuore, quelli veri, quelli dell'emozione. Riccardo è scemo perché non riesce a dire una cosa seria, e lui era il più emozionato di tutti noi. Era il più emozionato di noi perché è una persona assolutamente fantastica, dolcissima e molto molto molto profondo, per cui lui riesce a sbagliare una frase dopo che l'ha studiata per due giorni per l'emozione. Abbiamo sempre avuto questa grande fortuna, no? Di aver cavalcato il nostro tempo in ogni momento. Il solo fatto di essere riusciti a fare in 40 anni 40 album inediti vuol dire che eravamo più il tempo che abbiamo passato insieme che non quello con le nostre famiglie, ma soprattutto rendendoci anche conto di come ci cambiava il mondo sotto il culo, come dicono i francesi, nel senso che ci siamo resi conto di aver sempre seguito non le mode ma i fatti che succedevano intorno a noi. E devo dire che in questo Valerio è stato veramente straordinario, che è sempre riuscito